benvenuti a tutti. Nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 prodotta da Radio Big World. Iniziamo parlando brevemente di rookies, proprio a proposito di power ranking vari e discussioni su chi sia il migliore. L'NBA ha infatti decretato i nomi degli esordienti del mese trascorso, uno per conference. Ad est la spuntata Jason Tatum dei Celtics, mentre ad ovest un Donovan Mitchell che, avevamo già anticipato in settimana precedente, sta vertiginosamente crescendo a livello di statistiche e responsabilità negli Utah Jazz. A proposito di responsabilità, i due ragazzini hanno avuto modo di farsi vedere nel fine settimana appena trascorso, entrambi con la responsabilità di decidere due sfide con la palla in mano nei possessi decisivi. Il risultato non è ovviamente indicatore su chi sia migliore dell'altro, o comunque dell'otto, che tra l'altro ha visto rientrare finalmente anche Lonzo Ball in giallo-viola in questi giorni, ma dimostra quanto a livello di maturità i due possono essere definiti pronti alla competizione vera, quella che conta. Su Tatum in effetti c'erano pochi dubbi. Nella sfida di sabato notte in cui Boston ha faticosamente sconfitto in volata i Brooklyn Nets in quel del Barclays Center, gli ultimi due possessi offensivi sono proprio passati dalle mani dell'all around proveniente da Duke, che ha sapientemente tradotto da prima in due punti con una schiacciata e poi in tre punti con una splendida tripla dall'angolo i suggerimenti dei compagni. W in trasferta portata a casa per i Celtics e partita in linea con le medie stagionali per questo ragazzo che impressiona principalmente per completezza e maturità nei momenti che contano più che con la quantità numerica, anche se in questa partita va sottolineato 6 incredibili stoppate a referto per lui. Una quantità numerica che comunque lo vede tra i migliori della classe, con 14 punti e 6 rimbalzi per allacciata di scarpe. Per quanto riguarda invece Donovan Mitchell, nel primo match domenicale si è mostrato al mondo come principale terminale offensivo di squadra, seppur Utah non rappresenti il non plus ultra della Lega al momento. Tra una schiacciata e l'altra, il ragazzo si è attestato sui 27 punti pur tirando malino da dietro l'arco, con 3 su 10, ma si è fatto tradire dall'inesperienza nella coda finale dell'incontro, con Miami in vantaggio di 1, ma l'ultimo pallone in mano aiuta con un gioco disegnato per liberare la sua soluzione al tiro, o meglio, il suo isolamento. Mitchell ha caricato verso il canestro a testa bassa, tirando male, senza equilibrio e violentemente contro il ferro. Chiaramente si tratta di pura esperienza da far fruttare in futuro e non cancella né la sua ottima prestazione né il suo clamoroso avvio di stagione, seppur il risultato finale, anche a livello di freddezza, è stato ben diverso dalla gestione del suo antagonista del mese nella Eastern Conference. Diamo adesso rapidamente un'occhiata proprio alla situazione ad est, partendo dal fondo della top 8, anzi un po' più in giù. Philadelphia e New York sono al momento fuori dalle prime 8, infatti, pur considerando che stiamo registrando di martedì pomeriggio questa settimana. Il distacco con le squadre dietro, tra le quali una Orlando in caduta vertiginosa, crea già una divisione tra chi può sperare di raggiungere un posto playoffs e chi no, anche se tra quelle che attualmente sarebbero qualificate c'è un sostanziale equilibrio se si eccettano ovviamente le prime 3, con una netta marcia in più. Miami sosta al quinto posto, ma ancora una volta appare la più debole alla lunga, insieme probabilmente all'Indiana Pacers, anche se quest'ultimi continuano a destare ottime impressioni non solo grazie alla super stagione di Victor Oladipo. Ad esempio, infatti, nella convincentissima vittoria interna contro Milwaukee, 17 punti per un Domantas Sabonis che viaggia a 23 punti di media nelle prime 3 sfide di gennaio, coadiuvato da due prestazioni di concretezza per i due lunghi Miles Turner e Thaddeus Young. Boston, con una serie aperta di 6 vittorie consecutive, continua a mantenersi sulla testa di conference grazie alle innumerevoli soluzioni applicabili ed intercambiabili partita dopo partita. Oltre ad una Al Horford che a livello di responsabilità e consapevolezza sta giocando tra i top di ruolo ad oggi, troppo poco spesso si parla dell'importanza nel roster di giocatori come Terry Rozier, quasi 10 punti per partita, Marcus Smart 9.9 punti per gara, ma il consueto contributo incalcolabile in materia di grinta ed attributi, Marcus Morris 11 punti per partita con oltre 5 rimbalzi il suo fatturato, ed il neozelandese Aaron Baines 6 punti con 5 rimbalzi per allacciata di scarpe, assolutamente granitico ed a tratti inamovibile sotto canestro. Insomma, che i Celtics non siano erano solo Kyrie Irving, lo sapevamo, ma anche limitarne il successo all'esplosione di Jaylen Brown, la consapevolezza di Jason Tatum e la presenza del già citato Horford sarebbe un'offesa al lavoro di coach Brad Stevens. Dietro a loro resiste Toronto con una striscia di 5 vittorie consecutive al secondo posto, mentre Cleveland rallenta mantenendosi al terzo con 5 sconfitte nelle ultime 7 gare e con un'alchimia tra James e Isaiah Thomas da cercare e ricercare nelle prossime settimane. Le due vittorie arrivate nelle ultime 7 gare, comunque, coincidono con due sfide sulle 3 ad oggi giocate dal playmakerino con la maglia numero 3. La terza, quella dove è avvenuta una sconfitta, il playmakerino Isaiah è stato per la verità espulso, quindi possiamo dire le due vittorie arrivate nelle ultime 7 gare coincidono con le due sfide che Isaiah Thomas ha concluso di quelle che ha giocato. Ad ovest invece, i giochi per i primi 8 posti sembrerebbero addirittura già conclusi potenzialmente, con il nono posto che è dei Clippers, però di nuovo in piena emergenza infortuni, purtroppo costretti a dover fronteggiare continue emergenze e continue defezioni. A proposito di problemi simili, nuovo stop per Kawhi Leonard nei San Antonio Spurs per un infortunio alla spalla. Popovic dichiara che starà fuori il tempo necessario, senza ovviamente fornire previsioni. La credibilità degli Spurs da qui alla fine della stagione dipende molto dalle condizioni dello sfortunatissimo giocatore con le treccine, malgrado Manu Ginobili, onestamente fantasmagorico fino ad oggi. Golden State invece continua l'ennesimo campionato schiacciasassi, seppur al rientro di Curry si sia sostanzialmente fermato Kevin Durant, quasi si fossero passati un testimone. Ah, a proposito di Stephen Curry, la media punti nelle ultime 5 gare disputate dal rientro è pari a 35 di media, con un totale di 33 triple messe a segno, 6.6 per partita statisticamente, su 62 tentate. Non credo ci sia da dire molto altro, se non ovviamente che i Warriors hanno una striscia aperta di vittorie proprio di 5 partite. Dietro a loro provano a rincorrergli gli Houston Rockets, che con James Harden fuori per infortunio hanno affidato le chiavi della squadra ad un super Chris Paul, pescando un jolly insperato tra i giocatori dimenticati della Lega. E quindi a questo punto due paroline su Gerald Green bisogna assolutamente dirle. L'ala piccola giramondo e gira franchigie NBA si è infatti definitivamente accasata alla corte di Mike D'Antoni e agli Houston Rockets, e non poteva essere altrimenti se consideriamo le sue prestazioni in quello che possiamo definire il suo periodo di prova. Il 31enne passato ai pro direttamente dalla high school nell'ormai lontano 2005, scelto tra l'altro la 18esima dai Celtics, aveva avviato la stagione allenandosi con i Milwaukee Bucks, ma restando sostanzialmente senza squadra almeno fino ad una manciata di giorni fa. Il numero di infortuni elevato nel roster dei Rockets lo ha reso pedina opzionabile, con un contratto non garantito, per far fronte ad un'emergenza rivelatasi più grave del previsto, in seguito allo stop 2 settimane per James Harden, con un infortunio avvenuto tra l'altro in seguito al conseguimento della maglia texana per il nostro Gerardo. Per la verità, colui che ha vinto la gara delle schiacciate nel 2007 era già passato dai Rockets per una partita nel 2008, prima di venir tagliato, accasandosi sempre in Texas e Dallas Mavericks. E, a volerla dire tutta, Gerard a Houston è di casa per semplici questioni di origine, essendo stata proprio la città dove la NASA ha la sua sede, quella che ha dato i natali alla storia del momento. Dopo un paio di passaggi in D-League, cambio di innumerevoli casacche NBA ed un paio di esperienze in Cina ed in Russia. A proposito di questa, cercatevi lo Slam Dunk Contest del campionato russo del 2010, dove Green si sfida con l'incredibile James White, giocatore che anche nelle competizioni però non ha avuto decisamente fortuna. Il contratto non garantito firmato lo scorso 28 dicembre sembrava l'ennesimo capitolo di un'autentica epopea nomade per questo giocatore, comunque capace di attestarsi attorno a quasi 10 punti di media in carriera NBA. In tutto questo, pur essendo principalmente conosciuto per essere uno straordinario atleta e per schiacciare ai limiti degli immaginabili, le capacità di tiro da dietro l'arco, che sono andate crescendo con l'invecchiare della sua carta d'identità, ne rendevano comprimario potenzialmente utile a prescindere da Harden nel sistema Rockets. Ed infatti, dopo aver esordito contro la sua ex squadra di 12 mesi fa, i Boston Celtics, con 0 punti, il ragazzo ha messo in fila una serie di prestazioni in crescendo a dir poco clamorose. 18 punti con 4 triple contro i Washington Wizards, 10 punti con 2 triple contro i Los Angeles Lakers, 27 con 7 triple contro gli Orlando Magic, 29 con 8 triple, record in carriera impattato, nella sfida che un po' tutto il mondo ha visto contro i Golden State Warriors. Geraldo si attesta al momento in cui stiamo registrando sui 16.5 punti per gara, partendo ovviamente dalla panchina. Escludendo da questo conteggio la gara d'esordio al TD Garden, dove non ha praticamente mai tirato, si parla di 20 punti per la lanciata di scarpe, con un totale di 29 triple messe a segno nelle restanti, con una media di 4.8 canestri da 3 per gara, sempre escludendo ovviamente la sfida di Boston. Contratto assolutamente da garantire il suo, perché comunque potenziale pedina anche decisiva, in più ovviamente, nello scacchiere di una Houston sempre più determinata a competere per la vittoria nella Western. Il continuo infortunarsi di elementi primari del roster come Paul prima ed Harden adesso, coincidente con i fastidi di giocatori di contorno molto importanti nel sistema d'Antoniano, potrebbe ulteriormente rallentare il record comunque di questa franchigia, che già adesso appare inevitabilmente in flessione, soprattutto se messa in parallelo con una Golden State che ha appena ritrovato Curry in forma strepitosa, come abbiamo già detto, una San Antonio immortale seppur con il nuovo infortunio da fronteggiare di Kawhi Leonard, ed una Oklahoma City che cresce a vista d'occhio a livello di risultati. Sapevamo che la Western sarebbe stata un autentico rodeo, soprattutto per quanto riguarda la sfida incrociata tra queste quattro squadre, e se Golden State continua ad apparire una spanna sopra le altre, anche a tratti piuttosto nettamente per la verità, dietro è bagarre vera per contendersi l'eventuale finale di conference. In questo momento, malgrado le prestazioni mostruose dei Big Three, dei Thunders ed in particolare di quello con lo zero sulla maglia, concordo con il parere ascoltato in una recente puntata di Inside the NBA. La sensazione è che i Thunders non potrebbero aver la meglio in una serie playoff con nessuna delle altre tre top squadre al momento, ovviamente al completo. Forse potrebbero averla su Minnesota, però forse, e questo è determinato dalla sensazione che i tre, malgrado il collante Westbrook talvolta ecumenico e malgrado i fatturati serali in tabellino, stiano vivendo la loro esperienza in modo inevitabilmente scollegato. Si possono produrre grandi numeri giocando una serie praticamente continua di isolamenti per uno, per quanto riguarda i tre top attaccanti, ma vincere una serie contro una squadra vera, capace di poter schierare pedine vincenti inserendo in campo ad esempio anche il decimo uomo del roster, vedi proprio ad esempio Gerald Green, è probabilmente più complicato. Ovviamente si tratta di pareri di metà stagione e personali che poco valgono, anche perché dalla parte dei Thunders c'è da dire che la crescita di squadra in materia di rapporto vittorie-sconfitte è progressiva e coincidente con l'inserimento di una serie di giochi un minimo meno dipendenti da isolamenti immediati delle tre stelle, e che comunque con quei tre in campo in caso di un eventuale ultimo tiro decisivo si potrebbe dormire sonni un attimino più tranquilli rispetto a 12 mesi fa, dove solo San Westbrook poteva inventarsi la soluzione. Staremo ovviamente a vedere andando avanti. Benissimo, si conclude anche qui questa puntata di NBA Week. L'occasione è al solito perfetta sia per ringraziarvi che per ricordarvi che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, che si chiama appunto NBA Week, per reperire il link a podcast precedenti della trasmissione oppure aggiornamenti dell'ultimo minuto. Per ascoltarci comunque, se volete, gli appuntamenti settimanali restano sempre i seguenti anche per il 2018. Tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle ore 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima con NBA Week. It's over.